Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. C'è Cristina, una delle organizzatrici della manifestazione Liberi Tutti, lei fa parte dell'associazione GAVOL. Gruppo Animalisti Voltaire. Come mai Liberi Tutti? Allora, noi siamo qui oggi per dire no al trasferimento dei cani di Voltaire, dei randagi di Voltaire a Matera. Perché ci sembra assurdo portarli così lontano, a oltre 700 km di distanza, e per l'amministrazione comunale, per il sindaco che poi è il proprietario per legge, sarebbe difficile poterli controllare, e per noi associazioni difficile se non impossibile promuoverne l'adozione. E questo va, tra l'altro, anche viola il principio della legge regionale 59 del 2009, che invece promuove proprio l'adozione, cioè tutela gli animali e la loro adottabilità. È sbagliato tenere i cani lontani. Adesso sono a Reggio Emilia, noi promuoviamo le adozioni, quindi a tutt'oggi i cani via via vengono adottati, e questo anche grazie, no, a questa mobilitazione. La gente si è sensibilizzata e quindi chiede di adottare i randagi di Volterra. I cani toscani devono stare in Toscana, così vengono adottati e oltretutto non pesano più sulle tasche dei cittadini. Ad oggi, dei 74 cani appunto del comune di Volterra, siamo riusciti a trovare stallo adozioni per quasi tutti. Ne rimangono 7, chiaramente troveremo la soluzione anche per loro. Il problema è che il comune di Volterra ci ha ostacolato per quanto riguarda le adozioni. Ci ha ostacolato perché in 2 settimane sono state bloccate le adozioni ad esclusione di 2 giorni, perché il funzionario doveva andare a controllare appunto le condizioni di Matera, nonostante avesse già vinto la gara d'appalto. Sabato, la mia richiesta di un'ulteriore adozione di altri 8 cani, ho ricevuto la risposta che, visto che erano state autorizzate oltre 20 adozioni in quella mattina, si rendeva necessario bloccare nuovamente le adozioni in attesa del responso della ASL per quanto riguardava appunto le condizioni di Matera stessa. Ho risposto che non capisco come il comune non sia interessato ad un risparmio innanzitutto economico, visto che meno cani da mantenere e meno soldi da pagare per i cittadini stessi, e in secondo luogo non capisco che legame ci possa essere tra i miei cani, che comunque saranno adottati, e il fatto o meno che poi partano per Matera. Noi comunque siamo pronti a fare qualsiasi cosa per impedire il trasferimento, aspettiamo fiduciosi o meno il responso domani del comune, e altrimenti prenderemo provvedimenti, troveremo un posto anche per gli ultimi 7 cani, siamo pronti comunque a presidiare il canile stesso affinché il trasferimento non venga messo in atto. And you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. Alla fine non c'è stato bisogno di niente, né di un presidio davanti al canile di Reggio Emilia, né di nuove manifestazioni come quella che si è svolta a Volterra domenica 5 maggio, una manifestazione dalla quale provengono le testimonianze raccolte per noi da Arianna Gambelli. Martedì scorso, infatti, il comune di Volterra ha deciso di rinunciare al suo iniziale progetto di trasferire i cani randagi del comune verso la città della Basilicata. Il comune ha cioè stabilito che il canile di Matera non ha i requisiti previsti dalla legge toscana per accogliere i cani randagi, momentaneamente parcheggiati in un canile di Reggio Emilia. In questo modo i cani randagi saranno destinati al canile secondo arrivato nel bando di concorso dei mesi scorsi, e cioè la fattoria La Cappuccino di Fucecchio, quindi vicino a Volterra, e quindi con la possibilità per le associazioni animaliste di svolgere quel lavoro di cura, di assistenza, di ricerca di adozioni che normalmente si accompagna alle attività di un canile. Gli animalisti, le associazioni, i cittadini che hanno partecipato alle iniziative e alla manifestazione di domenica scorsa hanno quindi ottenuto un importante successo. Il comune di Volterra è stato ragionevole, ha ascoltato le proteste e le proposte che sono venute da tante associazioni e ha fatto marcia indietro. L'affidamento dei cani alla struttura di Fucecchio è provvisorio per permettere la verifica dell'esistenza di tutti i requisiti, così come è stato fatto per la struttura di Matera. Ma a questo punto possiamo dire che la lotta che si è aperta attorno alla sorte dei cani randagi di Volterra si è conclusa positivamente e dimostra che l'azione dei cittadini e delle associazioni è utile per prendere decisioni migliori. Con Restiamo Animali ci risentiamo domenica mattina come al solito a mezzogiorno, e intanto vi invitiamo a segnarvi una data, mercoledì 15 maggio, appuntamento per il primo apericena di Restiamo Animali, Ne saprete di più consultando il nostro sito e ascoltandoci domenica.